24 mattino. E gli espropriati, gli emigranti, inondarono la California come formiche frenetiche in cerca di lavoro, di cibo e soprattutto di terra. 250.000, 300.000. I bambini hanno fame, non abbiamo un tetto. Avevano sperato di trovare un focolare, trovarono solo odio. L'America di furore, il grande romanzo di Steinbeck, raccontato e letto in televisione, uno dei dibattiti di queste ore, da Alessandro Baricco. È sempre l'America delle autostrade, dei suoni, delle frontiere, quella che raccontava Tom Petty. Ebbene, Stefano Pistolini è morto davvero, è morto definitivamente. Stefano Pistolini sul Foglio lo ricorda così: il principale veicolo di diffusione di quella musica era l'autoradio, il culto per il suono delle autostrade, i cui eroi erano Springsteen, Van Morrison, Steve Miller e proprio lui, Tom Petty. Brani lunghi, atmosfere sognanti, testi evocativi, una profondità emotiva che viaggiava in sintonia con gli American Horses, accompagnando i vagabondaggi di milioni di giovani. È giusto ricordarlo così, e io ovviamente ho deciso di festeggiare il gattone Oscar Giannino chiamando Marilyn. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Oscar! Quindi non ho capito se oggi è San Francesco, Marilyn, giornata di pace, invece tu evochi, cioè se chiami Marilyn come se io fossi presidente Kennedy, cioè vuoi che mi sparino? Vabbè, sei un po' contorto, no. È il compleanno oggi della radio, potete chiamare, so, 800 24 00 24, chiamate anche solo per gli auguri. E noi abbiamo chiamato il governatore del Veneto, Zaia, buongiorno. Buongiorno a tutti, grazie per l'ospitalità. Grazie a lei, che è la migliore persona per commentare e spiegare cosa sta accadendo intorno al referendum, il cortocircuito fra l'Italia e la Catalogna, lo strappo della Meloni che ha fatto arrabbiare Maroni dicendo è un referendum inutile. Lei non è sceso in campo, Zaia, olimpico, zen, non si arrabbia? Ma guardi, io sono un pragmatico come tutti i veneti. Giorgia Meloni ha detto che il referendum non mi appassionano. E fin qua ci può stare, uno può essere appassionato oppure non appassionato. Nel momento però in cui dici che i referendum sono illegali, o dici magari qualcun altro dice i referendum sono inutili o altre robe del genere, vuol dire che di fatto disconosci la Costituzione italiana, visto considerato che questi referendum non solo sono rispettosi della Costituzione, ma nel caso del Veneto si va a votare perché la Corte Costituzionale dà ragione con una sentenza al Veneto, la Suprema Corte dice i veneti hanno ragione, è un diritto per loro andare a votare. Tutto vero, però la Meloni non ha detto che sono illegali, ha detto che sono inutili e che attaccano l'unità dello Stato. Allora la domanda che le faccio è come se ci fossero due critiche opposte. Qualcuno dice, vabbè, questo referendum rispetto a quello catalano è acqua fresca, no? Nel senso che è consultivo, non ha delle conseguenze immediate. Qualcun altro invece dice, attenzione, perché iniziano così come iniziò la Catalogna 5 anni fa con un percorso di lento avvicinamento e poi dopo l'obiettivo è la secessione. Allora le chiedo molto sinceramente, col pragmatismo che lei giustamente esalta, alla fine di questo percorso per lei c'è la secessione del Veneto dallo Stato italiano? Ma guardi, le potrei rispondere con le parole dei grandi padri della Costituzione e degli esperti poi di geopolitica anche, cioè il federalismo è centripeto, cioè unisce i paesi. Il centralismo è centrifugo, li disgrega. Tutti questi movimenti, pensi al movimento del Veneto piuttosto che della Lombardia, sostanzialmente portano in evidenza uno stato di disagio. E il nostro referendum sull'autonomia del Veneto è un referendum assolutamente in linea con la Costituzione. Non chiediamo nulla che non sia previsto dalla Costituzione. Ci sono 23 materie delegabili alla Regione e quindi il referendum lo si fa per questo. Chi dice che è inutile perché è consultivo, evidentemente da un lato non ha neanche letto la sentenza della Corte che dice guardate che non si può dire che è inutile andare a testare e a intervistare il popolo. Dall'altro potremmo dire che la piazza catalana sta alla questione catalana, cioè la gente in piazza, i catalani in piazza stanno alla questione catalana, come l'affluenza al referendum veneto sta alla questione veneta, nel senso che più pesante sarà l'affluenza, più pressione riusciremo a fare su Roma per avere queste competenze che potremmo aver avuto da 16 anni, ma mai nessuna regione ha avuto. Zaia, le faccio due domande secche, sono Giannino. La prima è questa: se condivide, io ne sono convinto, però le chiedo se condivide questa affermazione. E ridicolizzare e dire sistematicamente no a richieste di maggiore autonomia che porta alla radicalizzazione, non il contrario. Io sono convinto che in Catalogna sia avvenuto questo: il no ingiustificato di Rajoy per anni a richieste legittime ha radicalizzato fino alla secessione. Però chiedo a lei, perché è un punto di vista molto diverso da quello delle Meloni, il mio, io credo che sia sbagliato dire ma che bisogna rimanere tutti insieme come 200 anni fa, si può rimanere tutti insieme in modo diverso. Seconda cosa, pochi sanno che in realtà le materie che la nostra Costituzione rende rafforzabili come autonomia sono, come lei ha detto, 23. Fa capire meglio a chi è in ascolto su quali di queste, con quale qualche proposta concreta metterà sul tavolo per dire voglio più autonomia, non lo so, sulla scuola, voglio più autonomia, sull'organizzazione delle politiche del lavoro, su che cosa? Ecco qualche esempio concreto, però partiamo dalla prima. Guardi, la prima è che la radicalizzazione avviene, lo dicevo all'inizio della mia intervista, cioè il federalismo e centripeto unisce, la radicalizzazione non è altro che una risposta continua di no e anche disconoscere quello che i padri della Costituente dicevano. Einaudi nel presentare la Costituzione diceva ad ognuno dovremmo dare la sua autonomia, all'autonomia che si spetta. In Italia non è mai accaduto. La seconda risposta è relativa al fatto che io penso scusi, io penso che sia mi sono perso, mi dica scusi, mi tra le 23 materie su cui potete chiedere più autonomia, su cosa puntate? 23 materie, scusi, mi ero distratto, scusi. Le 23 materie, guardi, noi le chiediamo tutte, lei diceva quale chiederete, noi le chiediamo tutte, dalla prima all'ultima. Faccio alcuni esempi, tra quelle diciamo concorrenti, ce ne sono tre materie concorrenti, ad esempio ci sono i rapporti comunitari, non si capisce per quale motivo i rapporti comunitari non si possano ad esempio delegare, la Costituzione lo prevede, la scuola. Noi abbiamo un modello di scuola molto particolare, in Veneto si garantisce la formazione a 20.000 ragazzi con i fondi regionali e europei, abbiamo un altro modello particolare, la scuola dell'infanzia, 0-6 anni, Veneto è unico in Italia a garantire una scuola, la partecipazione a scuole paritarie, quindi a scuole religiose, agli asili, a 90.000 bambini, quasi l'80% dei nostri bimbi va in queste scuole, perché? Perché non ci sono le scuole statali, perché è un modello particolare. E molto altro ancora, sono 23 le materie, quindi c'è da... Governatore, lei nella scuola veneta che immagina introdurrebbe il veneto, la lingua veneta come materia obbligatoria, così come è accaduto in Catalogna con il catalano? Ma guardi, l'introduzione dell'obbligatorietà è un'introduzione che ha un percorso, in Catalogna ci sono arrivati per un percorso, in Catalogna c'è il bilinguismo, in tutta sincerità non è questo il problema. Quindi no, perché quindi no, non le ho detto questo, non mi faccia di robe che non ho detto, no, allora... è una suggestione che voi giornalisti cercate sempre per fare i titoli, io non voglio ridurre la partita dell'autonomia alla polemichetta sulla lingua veneta, guardi in Veneto 7 persone su 10 parlano e pensano in Veneto. Anche pensano, questa è bella. e quindi qual è la non obbligatorio, facoltativo? Ma guardi, ad esempio, per darle una risposta meno che si ma non lo chiedo polemicamente, perché ovviamente in Catalogna è stato un elemento importante del processo di autonomizzazione nazionale. Io capisco che fate il vostro mestiere e questa è una delle domande che tornano sempre. Dico ad esempio che nell'autonomia scolastica ci sono molte realtà in Veneto che già comunque parlano della storia locale. Ad esempio 1100 anni di storia della Repubblica Veneta vengono liquidate con un sorriso spesso, no? E questo lo troviamo assolutamente non concreto e anche poco rispettoso nei confronti dei veneti. Senta, visto che il governatore della Puglia l'altro ieri, due giorni fa, Emiliano, stupendo un po' tanti, ha detto ma io in realtà la penso come la Lombardia e il Veneto, cioè chi è più virtuoso nell'amministrare la quota propria di risorse dovrebbe averne di più, essere premiato. E io iscrivo la Puglia nella stessa gara. Vorrei sapere come commenta, ma soprattutto che aria tira nel rapporto, nella campagna referendaria, tra voi e il PD nella vostra regione. Ma guarda, eh sì, è vero. PD e tutti i partiti di fatto si sono schierati per il sì, però questo non è il referendum della politica, è un referendum di Zaia, della Lega, delle Forze Italia, del PD, dei 5 Stelle, era salendo dei Veneti e delle Venete. Quello che dice Emiliano è quello che prevede la Costituzione, no? La geometria variabile, l'autonomia differenziata. E io penso che davanti ai conti che ci dicono che ci sono, questi sono dati ufficiali che si leggono ogni tanto, e che ci sono 30 miliardi di sprechi in giro per l'Italia nella pubblica amministrazione, uno dice la quota di solidarietà e sussidiarietà nazionale comunque la potremmo anche andare a recuperare sul fronte degli sprechi che valgono quasi un terzo dell'interesse sul debito pubblico. Guardate, Napolitano, non lo dovrei citare io da leghista, no? Qualcuno dice che il nostro rapporto non è dei migliori. A Napolitano da Presidente della Repubblica hanno chiesto che cos'è l'autonomia e mi ricordo che lui rispose secondo me in una maniera molto, molto precisa e perfetta. L'autonomia è una vera assunzione di responsabilità ed è esattamente quello che noi chiediamo, di avere più responsabilità. Bene, grazie governatore. Grazie Oscar, abbiamo la pubblicità, torniamo subito dopo, chiamateci anche per gli auguri, 800 24 00 24, oggi è un giorno speciale, Oscar Giannino e anche io diventiamo maggiorenni. Mattino. Cani e gatti, Luca Terese e Mr. President Giannino, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari ascoltatori, non perdetevi e comprate, mio personale consiglio, Strabuttanissima Sicilia di Pietrangelo Buttafuoco, 140 pagine fiammeggianti per travolgere l'autonomia di cui l'unica cosa che questi vogliono difendere in Italia è l'autonomia alla regione Sicilia, uno scudo di dilapidazioni e di amici degli amici. Grande Pietrangelo Buttafuoco, Strabuttanissima Sicilia, 140 pagine, costa 12 euro, un po' caruccio, nave di Teseo. Vabbè, adesso diamo anche le note di stampa. No, però ovviamente grande Pietrangelo, grande saggista, grande polemista. Hai notato la prudenza di Zaia, sulla lingua? Io ho fatto una domanda che era legittima, lui ha frenato molto. Sì. Penso che se i catalani avessero avuto un leader della prudenza del governatore del Veneto non sarebbe successo questo casino. Non ti dico cosa non sarebbe successo, soprattutto se gli spagnoli non avessero avuto quel signore come Rajoy. Tra l'altro, peccato, Re Felipe ci ha deluso. Ci ha ricordato una buona ragione per allora, essere Mattarella repubblicani. Al posto di Re Felipe e Zaia al posto di Puigdemont. Ma, vabbè, che come adesso... dice Concita De Gregorio è un po' come se la secessione dell'Italia fosse in mano al governatore di Velletri, capito? Uno che ha fatto il sindaco in paesino. Paolo da Bergamo. Buongiorno. Io sono faccio l'asfalto sulle strade. Ho cominciato 15 anni e ho 52 anni, praticamente 37 anni che faccio asfalto. L'asfalto è anche cancerogeno. Adesso sento che si dice di andare in pensione a 65, a 70, non si sa bene. Io dovrei farne 43 anni e 8 mesi. Cioè, io sono stanco adesso, però vabbè, bisogna lavorare, bisogna guadagnarsi il pane. Però dico una cosa, io quando ho cominciato a lavorare si parlava di 35 anni, è un contratto non firmato, non scritto. Le cose poi cambiano, bisogna contribuire anche per i giovani. Ma appunto i giovani, mia figlia ha studiato, andava a fare gli stage per le multinazionali, anche un mese, due mesi, non gli hanno dato neanche la mancia, ha dovuto emigrare in Spagna, appunto in Catalogna, e là ha tutti i suoi bei diritti, non mi sembra, certo, dopo come dice Giannino, bisogna, non si possa, altrimenti i conti si scassano, però non mi sembra equo per niente, se poi senti i privilegi che sono in giro, cosa dobbiamo pensare nei cittadini? Allora, bella questa testimonianza che ci introduce nel tema su cui probabilmente discuteremo amabilmente anche oggi, Oscar, perché hai visto che la notizia è questa notula, l'avevamo anticipata perché qualche giornalista l'ha notata prima, Bechis, sul Libero, poi è cresciuta nei diversi giornali. Previsione in pensione a 70 anni. Il grande tema è questo: distinguere fra lavoro e lavoro. Un professore universitario può stare al lavoro in cattedra fino a 70 anni? Sì. Il nostro amico Paolo da Bergamo, che lavora con le mani nell'asfalto letteralmente da 35 anni, ha diritto ad andare in pensione? Io penso di sì. Penso che bisogna distinguere usuranti. Ha una mansione diversa. Non voglio sì, rifare però se... questo discorso. Senti, oggi, da oggi. Ma è così, da lo oggi... oggi è cominciata ufficialmente la guerra sulla prossima legge di bilancio. Questa è la novità politica, no? Perché MDP si è tirato fuori, non c'è la maggioranza. Sì. E il punto è: di quanto lo sfondiamo il deficit proposto da Padoan con grande responsabilità? Padoan ha portato al governo Renzi in 2 anni il 2% di PIL di deficit in più col timbro di Bruxelles, senza picchiare i pugni, senza gridare. Avercene come Padoan, e invece è partita la gara. Di quanto lo sfondiamo con 1,6? Uno delle ragioni che vedrai in Senato, si ballerà fino all'ultimo giorno, è esattamente quanti ne vogliamo per pensionare per i voti alle elezioni. Perché ti unisci a questa cosa? No, ma io sono d'accordo con te su questo. Si può tagliare da altre parti, non è che dobbiamo tagliare solo sulle pensioni. Non è che dobbiamo tagliare solo su Paolo Dio, con le mani nell'asfalto fumigante, su quelli che lavorano sulle impalcature fino a 70 anni. Oscar, ma tu sei d'accordo con me? No, io la verità io è che tu sei d'accordo dicendo. Con me che bisogna no, distinguere. Io la campagna demagogica quotidiana per trapressionare, non è che non la faccio, la combatto. Sai perché non si vuole distinguere? Ti dico solo questo: i politici non vogliono distinguere perché hanno paura di quel gioco che è accaduto anche a noi, che se iniziano a dire quello sulle impalcature fino a 70 anni non ci può andare, quello con le mani nell'asfalto più di 40 anni non ci può stare, arriva un altro che dice ma io sono insoddisfatto perché anch'io ho una classe di ma bambini, non è che hanno paura anch'io, hanno paura di questo, ma no, e quindi non scelgono, non è una paura potenziale, e quindi tutti a 70 ma come anni. Non scelgono, abbiamo fatto più di un intervento l'anno su cosiddetti esodati che non lo erano, è per questo che ci sono le idee, è diventata la regola la deroga e non la regola dell'età legale, e infatti come vedi l'età reale con cui i italiani vanno in pensione è distante anni ed è inferiore di anni rispetto a quella legale che scatta e che tanto indigna tutti, dicendo abbiamo l'età legale per la pensione più elevata d'Europa, e però conta che poi continuiamo ad andare in pensione 5 anni prima di quanto sia l'età legale, a furia di fare eccezioni. Non è che hanno paura, ne hanno fatte ogni anno di eccezioni e continuano a farle, quindi continuano allora, a dire sommessamente la mia. Il punto ti è cito che Don Milani, il punto è cambiare le masse, è sempre non così. C'è nulla di più è sempre diseguale così, cioè di non questo, far parlare di più iniquo. E io francamente io non ti vado sulla voce, fai come vuoi, dai, avanti, parla. Non so cosa dire, non credo che si ascoltino, aspettino noi che ci andiamo sulla voce. Ti dico questo: a 80 anni non siamo a 80 anni, 70 anni non siamo ancora a 70 anni, 66 e 7 mesi sì siamo a quello, e bisogna vedere se tra 2 anni si eleva automaticamente. A quel punto, come detto mille volte, deve cambiare la mentalità dell'organizzazione del lavoro, cioè è chiaro che se mi dici 40 anni sull'asfalto la risposta è no. La risposta non è la pensione, la risposta è un'organizzazione del lavoro in quelle aziende in cui dopo X anni, ben prima di 40 anni sull'asfalto scatta questa cosa, li devo mettere a fare altre cose, capisci? Perché quelle aziende hanno Oscar, conducenti, ma spesso altro non c'è. Ma chi l'ha detto che non ci sono alternative? Dire non ci sono alternative nella vita è ragionare perché hai un obiettivo, aumentare il deficit previdenziale. Io invece lo voglio contenere. Non è che uno dice non può salire sull'impalcatura, lo metto a fare la contabilità. Non è così. Bisogna essere realisti. Ci sono i mezzi o non ci sono i mezzi? Alla catena di montaggio della Fiat non c'è più la catena di montaggio, sai da quanti anni? No, esiste ancora, le ho viste, quindi ti posso assicurare. Le hai viste, ma forse hai confuso le isole di produzione con chi processa i dati. Le isole di produzione dove ancora oggi, ti faccio questo esempio perché lo glorificò a Marchionne, una donna con un solo movimento della mano incastra il paraurti della Panda perché non c'è ancora una macchina che riesce a fare quel movimento, non è che quella donna dopo la prendi e la metti alla mensa perché non c'è quello spazio di ricollocazione, e poi c'è un'usura delle persone in che fanno i lavori. In aziende con decine e decine di migliaia di dipendenti non c'è lo spazio di ricollocazione? Non c'è lo spazio per 300 allora, guarda, persone che organizziamo l'isola. Un corso per tutti quelli che la pensano così, li mandiamo a verificare come nelle grandi aziende all'estero invece il cosiddetto, un tempo si chiamava così, il mansionario, non è il ricollocamento, il mansionario prevede proprio la differenziazione per età dell'utilizzo in azienda, perché guarda, se però, ci si riesce sono contento. Ecco appunto. Roberto Speranza al nostro microfono, sempre 800 24 00 24 se volete intervenire e anche fare complimenti a Oscar, che quindi a queste due età, 18 anni oggi, 100 magari, nella vita, 100.000 100.000 buongiorno Speranza, buongiorno, avete buongiorno dato uno shock ai giornali, è l'apertura di praticamente tutti i giornali, MDP rompe con la finanziaria, allora provi subito a spiegare perché siete arrivati a una scelta così radicale e così netta. Ah, perché abbiamo fatto delle richieste molto chiare al governo a partire dalla questione sanità, prima di tutto sanità. Siamo in un paese in cui 12 milioni di italiani non si curano come dovrebbero e c'è bisogno di mettere un po' di risorse sulla sanità. Invece in questo DEF la percentuale per la spesa per la sanità pubblica sul PIL continua a diminuire, per cui noi chiediamo l'abolizione del super ticket e rimettere risorse fresche su questo capitolo che è fondamentale. Poi abbiamo chiesto un po' di soldi per il diritto allo studio, abbiamo chiesto un impegno sulla questione del lavoro, in modo particolare contro la precarietà dei giovani, superare questi stage a 300 euro che stanno ammazzando un'intera generazione, e su questo il governo non ha dato risposte, quindi noi oggi voteremo sì allo scostamento di bilancio, che è un voto che serve per non per avere più risorse. E quindi è un voto importante perché l'aumento dell'IVA sarebbe un colpo per l'economia italiana e sarebbe pagata soprattutto dai ceti sociali più deboli. Però non voteremo sul DEF perché non ci sono le risposte che aspettiamo. E la ragione quindi è una ragione tutta di merito. Se il governo decide in queste ore di cambiare rotta, di rimettere al centro la questione sanità, lavoro, diritto allo studio, noi siamo pronti sempre a dialogare. Ma quindi sbagliano i giornali a scrivere che in realtà era una scelta strategica ricondotta da Lema, non solo da Lema, comunque ci dobbiamo tirare fuori in vista delle elezioni, non c'entra niente, lei dice che è solo una scena di merito, perché per esempio Gentiloni su Repubblica dice: sono deluso, il confronto era partito. Ma guardi, abbiamo bisogno di risposte concrete, si parla con i fatti perché tutto il resto è politicismo. Il governo abolisca il super ticket, che è una tassa odiosa che non consente a milioni di italiani di fare il monitoraggio sulla propria salute, la diagnostica per curarsi meglio. E si dimostrerà subito che non c'è nessuna questione politica o politicista, i soliti fantasmi che si vedono, ma una questione di merito. Noi siamo stanchi di stare lì a sostenere un governo che fa cose diverse da quelle che servono all'Italia. Si continuano a mettere risorse su sgravi, bonus, regalie fiscali, mance che non servono a nulla, che non hanno prodotto sviluppo, non si mettono risorse sufficienti sugli investimenti che sono la vera leva per la crescita e non si mettono risorse sul welfare. Per noi la questione sanitaria in questo momento è fondamentale. Speranza, le chiedo anche un'altra cosa, è l'altro tema, addirittura molti giornali dedicano l'apertura, il documento che parla di aumento dell'età pensionabile a 70 anni e ne stiamo discutendo con Giannino. Qual è la vostra opinione su questo? Fornero sì, Fornero no, di più, di meno? Fornero no sicuramente, anche questo è un altro punto di dibattito su cui ieri Padoan ha chiuso una saracinesca. Siamo in un paese in cui si va sempre più tardi in pensione, per la prima volta si riduce l'aspettativa di vita e continua invece ad aumentare l'età in cui si va in pensione e i giovani restano a casa. Quindi anche questo è uno dei punti di rottura, sì, di dissenso. Sì, noi abbiamo posto anche questo tema, poi simbolicamente in questo momento abbiamo voluto dare un peso prioritario alla questione sanità. L'abolizione del super ticket sarebbe un segnale importante e giusto che il Paese aspetta in controtendenza rispetto a questo disinvestimento sulla sanità. Io voglio ripetere il dato perché è impressionante, 12 milioni di italiani, cioè stiamo parlando di qualcosa intorno a un quinto del Paese, non si cura come dovrebbe per motivi economici. Cioè, rispetto a un dramma di questo tipo io continuo a vedere mance, bonus, regalie fiscali, è del tutto evidente che a un certo punto dico la mia firma sul DEF non ce la metto più. Allora, grazie a Roberto Speranza, sentiamo un ascoltatore e poi torniamo ai cani e gatti. Andrea da Vicenza. Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sul tema pensioni, ci sarebbero tanti temi ma non mi bastano 3 ore. Allora, il problema è uno. Io pago ogni mese uno spiccato accento vicentino, No, sono romano, ma vivo a Vicenza da 30 anni, ecco. per lavoro. Ora che succede? Io pago ogni mese i miei contributi per la pensione. Perché dovevo sentirmi dire che devo andare in pensione sempre più tardi? Io sono d'accordo, sono solidale con tutti. Gli ammortizzatori sociali devono essere tolti dall'INPS. Gli ammortizzatori sociali non devono pagare i lavoratori. Gli ammortizzatori sociali possono pagarli il lavoro. Io sono disposto a farmi fare una percentuale di trattenuta sul stipendio per gli ammortizzatori sociali. Come dovrebbe essere fatto per le aziende in relazione al fatturato che hanno una tassazione per gli ammortizzatori sociali. Gli ammortizzatori sociali non devono essere una scusa per poter fottere, scusatemi il termine, i lavoratori e mandarli a lavorare in pensione sempre più tardi. Cioè io credo che i soldi che io verso ogni mese siano distolti, siano io sento, mi sento derubato dallo Stato, mi sento derubato dall'INPS, perché verso soldi che poi alla fine mi vengono a dire no, non ci sono soldi, non puoi andare in pensione. Oscar, rispondi tu. Questa è la convenzione che molti di voi continuano ad avere e noi appunto invecchieremo come stiamo facendo, spiegandovi come funziona il sistema pensionistico italiano. Il sistema pensionistico italiano si chiama a ripartizione. Cosa vuol dire, caro ascoltatore? E insieme a lei tutti coloro che sono convinti di avere un tesoretto accumulato con i versamenti nel tempo, no, quel versamento nel tempo, mese per mese, non è un tesoretto accumulato per la vostra pensione. In un sistema di ripartizione, i contributi che versiamo ogni mese servono ogni mese come cassa liquida per pagare gli assegni in pagamento di chi è andato in pensione prima, e non servono neanche a coprirli integralmente, perché anche nel solo bilancio della pura previdenza, INPS, senza l'assistenza, non è in equilibrio. Poi, aggiungendovi anche le prestazioni assistenziali, seconda parte delle sue considerazioni, che l'INPS eroga, tra cui è giusto, secondo me, invece contribuire noi direttamente e le imprese anche al sostegno a chi perde il lavoro, ma quelle assistenziali pure, cioè l'integrazione al minimo, per esempio, dei trattamenti, della pensione sociale e così via, si arriva a 111 miliardi di euro che ogni anno la fiscalità generale dà oltre ai nostri contributi all'INPS, perché sennò l'INPS non starebbe in piedi. Ma in un sistema a ripartizione, lei i soldi ogni mese li dà pro forma allo Stato, ma in realtà vengono utilizzati per pagare le pensioni ai pensionati. Per questo quelli come me dicono dovremmo anche un po' riequilibrare sopra una certa cifra, sopra un certo multiplo, quelli che hanno gli assegni previdenziali retributivi, non contributivi, legati alle ultime retribuzioni di alcuni fondi speciali, sono 11 di numero, i più privilegiati, e per quello prendere un contributo di solidarietà, perché c'è un eccesso di regalo. Però vede, d'accordo, voi siete convinti invece che vi dilapidano un patrimonio che è intestato a voi. No, nel sistema ripartizionale la solidarietà c'è ogni mese. Sì, però ovviamente l'INPS ha capitalizzato tutti i contributi, altrimenti li ha usati, dire, non è che li butta, li spende, li ha, non usati, li ha capitalizzati, li spende, investiti, sì. Purtroppo non ce l'ha altri soldi, cioè noi glielo dobbiamo aggiungere di tasse ogni anno. Luciano da Pavia. Luciano? Sì, sono qua, salve. Guardi, sentendo spesso parlare di questi argomenti anche nella vostra trasmissione, molto interessanti, mi viene in mente un film, Nestor e l'ultima corsa, con Alberto Sordi che non sa più dove collocare il cavallo. Povero cavallo. Esatto, e questo lo dico perché anche con amarezza le spiego. Io sono, adesso ho 63 anni, sono uscito dalla banca a 54 anni, giovanissimo. Molto giovane. Con 40 anni di contributi, perché gli ultimi 5, in aggiunta ai 54, li ha pagati la banca. Però in realtà io sarei anche rimasto. Era uno scivolo. Era uno scivolo, perché ho fatto vedere, e poi sono andato comunque in pensione giovane a 59 anni. Allora, cosa voglio dire? Alle volte, secondo me, accade questo, che non è detto che per forza uno voglia andare in pensione. A me, per esempio, sarebbe piaciuto, ero al massimo della professionalità. Bravo, anche rimanere. Ma diventava antieconomico e questo non aveva più senso. Aspetti, per chi? Prego. Per chi era antieconomico? Per me. Per lei era antieconomico? Praticamente sì, stando a casa io prendevo praticamente quasi l'intero stipendio di quello che mi avrebbero dato. No, perché complessivamente tenerla a casa è assolutamente non economico, questo è chiaro, certo, che è così. Però Oscar, certo, allora certo, questa è la follia, questo penso che siamo d'accordo. Scusi un attimo Luciano, questa è la follia del sistema. Prima crea una regola draconiana per tutti che tiene anche il nostro amico asfaltatore, poi però quando arrivano i soggetti forti e dicono ma io quello, il signor Luciano, non lo devo buttare via, e allora autorizza lo scivolo. Luca, a volere i prepensionamenti nelle aziende in crisi è un soggetto accettarli. Che si chiama sindacato. Gli editori, dei giornali, cioè, non hanno voluto gli scivoli. Abbiamo mandato via generazioni di giornalisti a 58 anni. Le aziende, chi si alza? Ma anche le aziende, ma anche la banca del signor Luciano ha voluto liberare un po'. Quindi il problema è che se è draconiano per tutti, allora deve essere per tutti. Poi non si dà lo scivolo. Per tutti. Chi li mette i soldi? Il contrario, non si fa il prepensionamento. Ma non puoi essere così sensibile alle cifre. No, ma scusami, Oscar. Stai dicendo il contrario di quello che dico. Non si può più prepensionare. Cioè se si è così feroci che si resta fino a 70 anni con le mani nell'asfalto, poi non si fanno deroghe, perché sennò è inutile. Però allora, cioè, parliamo di una persona che diceva: volevo continuare a lavorare. D'accordo. Tu da una parte critichi l'innalzamento automatico agganciato, certo, all'equità pensionabile, dall'altra dici però non bisogna prepensionare. A quale dei due devo dare retta io? Ma no, stai facendo una semplificazione. Sto dicendo: non dobbiamo mandare tutti indifferenziatamente, bisogna iniziare a scegliere pagando un prezzo di consenso, lavoro per lavoro, e bisogna evitare proprio questo, il prepensionamento, che è cieco come l'innalzamento. Tutti via quelli della banca perché devo risparmiare un po' di stipendi. Così. Tu dici più flessibilità, e la mia risposta più intelligenza, è, patto, Oscar, più intelligenza. Noi gli diamo solo il maturato, e non è questa invece l'istanza dei prepensionamenti chiesti dai partiti, hai capito? Perché altrimenti dice no, mica li possiamo fare mettere. Ma ti sto dicendo che sono contro i prepensionamenti. Laura da Roma. Pronto, buongiorno, sono Laura da Milano. Ah, da Milano, scusa. Buongiorno, io chiamavo sul tema sempre delle pensioni, sono sempre d'accordo con il dottor Giannino, ma quando mi parla di riorganizzazione delle mansioni forse si riferisce ad aziende medio-grandi. Io ho un'esperienza di un'azienda di 40 dipendenti, un lavoro estremamente usurante e faticoso, il trasloco, e le dico che quotidianamente ho in ufficio persone di 63 anni che mi dicono: io non ce la faccio più. E la mia risposta è: non so come aiutarti. Ecco, per te non è prevista le dico, una forma di... Le dico la risposta. Cioè non vogliono o non possono? Chiariamolo. Dice questo. In azienda non ce l'ho il posto da dargli con la vecchia. Allora, ripeto, nei paesi in cui la cultura del lavoro è un po' più avanti, non solo conflittuale, la risposta A: esiste nel perimetro dell'azienda un... occupazione per chi va avanti nell'età? Ci sono le aziende in cui dice no, perché siamo troppo piccoli, oppure no, perché facciamo tutti solo la stessa cosa. In quel caso si è immaginato, ma da 20 anni fa, nei contratti di settore, l'integrazione settoriale per questo tipo di problema. Noi invece non l'abbiamo mai concepita per la nostra maniera antagonista di concepire i rapporti di lavoro e contratto. Sbagliato, è venuto il momento di farlo. Quindi alla sua azienda che si trova, e io le credo, come in tante piccole aziende italiane, in quelle condizioni, la risposta dovrebbe essere stata offerta dal contratto di settore. Così si va avanti, perché altrimenti sarebbe una follia pensare che uno fa la stessa cosa per 45, 50, 60 anni, è chiaro. Ma non è vero che non c'è l'alternativa nei paesi civili, assolutamente, ci hanno pensato decenni fa. Infatti. Oscar, però dico, c'è un messaggio che ci arriva di un nostro ascoltatore che dice: finiremo in 600 tutti insieme. Dice: è impossibile che ci siano 600 altre mansioni nella realtà dell'azienda che conosco. Diamo per vera questa cosa? Cioè non sempre c'è una disponibilità in una media azienda, le piccole imprese. Ma siete formidabili, c'è sempre una ragione per dire che non c'è alternativa ad andare. No, però questo è il paese dei paradossi alla ricerca di non applicazione di una logica. Io al paradosso permanente italiano, siccome da decenni vedo i suoi esiti, gli esiti sono lo sfondamento della spesa previdenziale. Laura da Roma, se ci metti 3 secondi, perché siamo in chiusura. Buongiorno. Vai. Buongiorno, auguri. Allora, lavorato 41 anni e 3 mesi, ospedale, medico di pronto soccorso, simultaneamente di guardia in sala parto, simultaneamente di guardia in patologia neonatale e nel reparto di pediatria. Queste sono le nostre guardie dell'ospedale di provincia. Io a 60 anni ero bruciata, cotta, completamente cotta. Allora, l'alternativa qual era? Poter andare in un posto meno oneroso. E c'era? Giannino, questo lo dico per lei. Sì. Il posto meno oneroso era già occupato dai grandi raccomandati politici. Allora ha ragione, ma io, Oscar. Ma io quindi ho ragione. Ma come vede fuori c'era. Con Napalm, quelli. Certo, sono d'accordo con lei. Anzi, se ha bisogno di una quota per compartecipare all'acquisto, il Napalm, vengo per prima. Va bene, abbiamo finito il tempo oggi. I cani e i gatti vi salutano, festeggiano. Buon compleanno, Radio 24. San Francesco, il santo patrono e della pace dell'Italia. Cane e gatto è un amore-odio. Guardi, solo amore.